rispetto io però chiedo. Scusa, regalami un sorriso, io ti porgo una rosa. Su questa amicizia nuova pace sì, rosa. Perché so come sono, infatti chiedo perdono. Se quel che fatto è fatto io però chiedo. Scusa, regalami un sorriso, io ti porgo una rosa. Su questa amicizia nuova pace sì, rosa. Perdono. Puisque de nous deux il ne reste qu'un secret, je te demande peux-tu me rendre la clé de ma raison de vivre que t'as emporté. Je n'ai que mon désir en guise d'amitié, je n'ai que mon cœur d'homme pour pouvoir t'aimer. Ta douce folie je ne peux l'apaiser, j'irai sans sembler analyser tes pensées. Même si je te fais mal peux-tu me pardonner. Perdono. Si quel che fatto è fatto io però chiedo. Scusa, regalami un sorriso, io ti porgo una rosa. Su questa amicizia nuova pace sì, rosa. Perché so come sono, infatti chiedo. Perdono. Se quel che fatto è fatto io però chiedo. Scusa, regalami un sorriso, io ti porgo una rosa. Su questa amicizia nuova pace sì, rosa. Perdono. C'est ta peau. Le mystère posé sur ma tête, ton souffle léger. Ton corps si chaud, si froid, abandonné. Sens toujours près de moi pour me parler. De ta façon d'être toi qui m'est touché. Et tout, je ne sais pas, et tout est doute. On finit à jamais de tracer ma route. Se quel che fatto è fatto, io però chiedo. Scusa, regalami un sorriso, io ti porgo una rosa. Su questa amicizia nuova pace sì, rosa. Perché so come sono, infatti chiedo perdono. Se quel che fatto è fatto io però chiedo. Scusa, regalami un sorriso, io ti porgo una rosa. Su questa amicizia nuova pace sì, rosa. Perdono. Pas à pas tu t'éloignes de moi, mais tu m'as laissé ton ego. Pas à pas tu marches vers d'autres bras pour me pardonner s'il le faut. De toi à moi une vie ne suffit pas, pour l'amour à zéro défaut. Moi sans toi je n'existerai pas, car tu m'as aimé tellement trop. Si quel che fatto è fatto io però chiedo. Scusa, regalami un sorriso, io ti porgo una rosa. Su questa amicizia nuova pace sì, rosa. Perché so come sono, infatti chiedo perdono. Se quel che fatto è fatto io però chiedo. Scusa, regalami un sorriso, io ti porgo una rosa. Su questa amicizia nuova pace sì, rosa. Perché so come sono, infatti chiedo. Fais-tu pour vivre le cœur dans le brouillard. Les mensonges sont obsolètes, ne sont plus dans le noir. Pardonne.